La versione di Oscar, di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori del 24, buon mercoledì 5 febbraio, sono le 16.36 minuti 17 secondi, siamo qua in diretta di Radio 24 di Milano. Andiamo subito al punto di oggi, in maniera che chi avesse delle domande da formulare per capire meglio, avesse dei dubbi o anche delle opinioni sul punto su cui teniamo la trasmissione oggi, possa farlo al numero verde 800 24 00 24. Di cosa parliamo oggi? Di questa complicata procedura che è stata introdotta con il decreto 4 del 2014, che trovate sui giornali descritta un po' confusamente, perché è una materia tributaria complicata, come voluntary disclosure, cioè come l'emersione spontanea di chi detiene patrimoni all'estero ignoti al fisco, una procedura di autodenuncia, per così dire, perché vale per coloro che non hanno accertamenti, avvisi in corso su questi patrimoni, che ha una finestra temporale aperta fino al settembre dell'anno prossimo, dal quale il governo italiano si aspetta di ricavare molto. Addirittura si è parlato di 15 miliardi di euro. Il contesto in cui questa emersione spontanea avviene è quello di un cambio di contesto internazionale, per così dire. I grandi paesi sono assetati di entrate e avete visto negli anni gli Stati Uniti mettere nel mirino le banche svizzere, mettendole proprio KO, la Germania e la Francia usare i servizi segreti per comprare liste di clienti di cui si erano appropriati funzionari infedeli di banche svizzere, la lista Falciani e così via. Ma quello che conta di più è che dal 1 gennaio 2014 ci sono queste nuove norme di una convenzione a cui partecipano 36 paesi, compresa l'Italia e la Svizzera, si chiama Financial Action Task Force, queste norme che entrano in vigore. E queste norme che cosa riguardano? Riguardano i reati tributari ovunque commessi nei paesi che hanno sottoscritto questi protocolli, e prescrivono la collaborazione, lo scambio di informazioni tra i sistemi tributari di paesi che chiedono informazioni e i sistemi bancari degli altri paesi. Naturalmente questa convenzione poi ha bisogno dei protocolli di ratifica per entrare in vigore, ma quello che conta è che in Svizzera, su cui si appunta il più delle aspettative del governo italiano, ecco, in Svizzera dal 2015 entra in vigore il reato di autoriciclaggio e si applicherà il riciclaggio anche a chi dovesse risultare non in ordine per la provenienza dei suoi patrimoni nelle banche svizzere e le banche avessero dei problemi. Quindi in questa finestra congiuntura temporale ecco che il governo prepara questa misura, la presenta. C'è stata proprio una presentazione ieri a Lugano fatta dal capo dell'UCFI, che è l'ufficio, per così dire, che nell'apparato tributario italiano presiede proprio alle cose sull'estero, Antonio Martino. E Antonio Martino è stato molto tosto nello spiegare alla comunità bancaria svizzera presente i molti particolari di questa misura. Allora, cerchiamo di capire oggi, facendolo spiegare da un tecnico vero, a chi conviene, quali sono le vere cose a cui chi si autodenuncia va incontro, nel senso che c'è un rischio di penale su per che tipo di reati e per che cosa invece non c'è, che cosa si paga davvero, perché il principio affermato è quello che si paga tutte le imposte sugli anni in cui il patrimonio è stato ignoto allo Stato, ma c'è uno sconto sulle sanzioni amministrative che ci viene dal recepimento di direttive europee che ha abbattuto le soglie, diminuendole, delle sanzioni amministrative che si aggiungono invece al pagamento totale delle imposte dovute. A chi conviene, cosa si rischia e quali sono i problemi? Concludo questa brevissima introduzione dicendo che già professionisti in questi giorni, per esempio Andrea Manzitti, che appartiene lo studio Erede Bonelli Pappalardo, ha iniziato a scrivere sui giornali: così com'è non ci conviene, non conviene, è fatto in maniera troppo restrittiva, non è ben chiaro che cosa davvero sia eluso dai reati penali, visto che c'è la segnalazione alle procure, e le procure per come è formulato il decreto tenteranno di riaprire tutto il possibile, eccetera eccetera eccetera. Allora, l'esperto a cui fare le domande, e che prego di rispondere in maniera piana perché il nostro pubblico non è tenuto a essere specializzato, e il professor Raffaello Lupi, che insegna diritto tributario a facoltà di giurisprudenza dell'Università di Roma Tor Vergata. Buon pomeriggio professore, grazie di essere qua. Salve, buon pomeriggio agli ascoltatori. Allora, innanzitutto, a chi conviene? Che tipo di patrimoni devono essere storici e mai toccati? Se sono stati alimentati nel tempo dalle attività con cui si muovevano, rientrano nella misura oppure no? Allora, i soldi all'estero possono derivare da un'infinità di cose, quindi conviene in relazione a come sti soldi si sono creati, sono stati incrementati nel tempo, e conviene anche in relazione alla disponibilità finanziaria complessiva dell'interessato. Sicuramente non abbiamo mai visto, almeno non mi consta per giurisprudenza, casistica pubblicata, che le norme sul monitoraggio fiscale abbiano mai fatto emergere un centesimo di evasione in quanto tale. Cioè, le norme sul monitoraggio fiscale sono state applicate in casi in cui il malloppo, chiamiamolo così, all'estero è venuto fuori per altre ragioni, però di per sé era una normativa del tutto inutile, soprattutto nella sua finalità di impedire che il risparmiatore italiano investisse in Svizzera per non pagare le imposte sostitutive sui redditi di capitale. Cioè, qui c'è un equivoco, che è il capitale e i frutti del capitale. Spesso il capitale a sua volta è reddito evaso, quindi per chi ha costituito il capitale con redditi evasi accertabili, ha ragione Manzitti, cioè non conviene, c'è nessun elemento, sì, ma in realtà non è stata, io non ho capito che cosa ha detto prima nella presentazione, cioè i 15 miliardi, sì, sono 15 miliardi di capitali rientrati, non di gettito. E questo, se lei guarda come ha parlato il ministro del Tesoro Saccomanni, sembrava parlare della seconda cosa, nella qual caso ovviamente abbiamo l'obbligo di dire che secondo me non esistono né per dritto né per rovescio. Ecco. Voglio dire, ma possiamo dire pure che c'è la pentola d'oro alla base, esatto, dell'arcobaleno. Meno, però esatto, mi pare proprio che non sia, dico, è un gettito da IMU, ecco, cioè, lo scudo fiscale, che era un condono, quanto ha dato? 5, esatto, se non vado errato, no, così. Dico, ma com'è che questi si devono denunciare da soli? Perché lei ha capito che a quei 15 miliardi che vengono dati in pasto al pubblico ci si arriva dicendo ce ne sono 120-180, siccome noi otterremo di far pagare tutte le imposte per gli anni dovuti, è vero, gli faremo uno sconto sulle sanzioni eccetera eccetera, alla fine si arriva a 15. A me sembra una, però Oscar, ti posso dare, scusa, molto brutalmente ti dico, questa è una cosa che il legislatore ha fatto perché qualcosa bisogna fare, ecco, bravo. Il popolo italiano si aspetta molto, ha un'esagerata aspettativa come risoluzione dei problemi dalla politica, quindi si aspetta, dice ci sono 200 miliardi all'estero, il legislatore che fa? Allora io devo far vedere che ho fatto qualche cosa e quindi mi invento qualcosa che alimenti le conferenze stampa, se poi non funziona… La gente ha la memoria più o meno di un pesce rosso, dopo 3 giorni non si ricorda più nulla, è presa da altre urgenze, perché questo può convenire a chi ha pochi soldi in Italia, cioè agli eredi del capitalismo familiare italiano. E che hanno bisogno di ripatrimonializzarsi qua. Bravo, che si sono mangiati più o meno tutto, che hanno 20 milioni di euro in Italia, gli sono rimasti i soldi del nonno, altri 30 milioni in Svizzera, ne hanno bisogno, li devono portare qua, dice, come facevi? Adesso pare che io per fortuna non seguo professionalmente gente che ha nascosto ricchezza al fisco, però verrebbe da dire, te li fai prestare da una banca straniera che dice, ho trovato un fondo di investimento che mi sottoscrive un aumento di capitale, capito? Cioè, in realtà sono i soldi tuoi, esatto, che sono stati messi a garanzia del prestito, sì, quindi non è che sia proprio obbligatorio tirarli fuori. No. Io Cioè, ci sono altri modi per farli arrivare. Sono molto d'accordo con quello che stai dicendo. Quindi, se uno non si vuole scoprire, già c'ha altri modi, ma mettiamo che voglia, siccome sono i soldi che erano lì quando avevamo paura che arrivassero i comunisti, no? Sì. Ah, magari stanno lì dal 1968, non ci hanno dato interessi, la questione degli interessi è un tema, perché è chiaro che quelli eventualmente li devi sanare. Sì. Paghi quella aspetta, allora ti interrompo, perché su quanto si paga dopo 60 secondi che facciamo l'informazione stradale. La versione di Oscar. Eccoci qua, tornati in diretta. Abbiamo capito con il professor Raffaele Lupio, a proposito di questa immersione volontaria, che conviene innanzitutto a chi ha patrimoni storicamente costituiti e non alimentati nel tempo, capite? Diciamo, esistono possibilità alternative, questo è bene che ce lo ricordiamo, è inutile che ci illudiamo, ma il punto è, quanto si paga? Si paga la sanzione ridotta per l'omesso monitoraggio fiscale, che è la metà del minimo, che non ricordo quant'è, ma tipo il 2% l'anno, una cosa del genere, è una cosa che è comunque diventata civile, perché i primi tempi era una sanzione terroristica, poi come dicevi tu, con l'uniformità europea l'anno, perché era un disincentivo alla libertà di circolazione dei capitali, quindi è stata ridotta, se ne paga la metà del minimo. Esatto. Quindi questo potrebbe, quindi il minimo è stato abbassato al 5%, potrebbe essere 2,5%, questa è la cosa di sanzione. Però l'imposta, non lo so Oscar, se ogni anno, esatto, perché quindi, può salire, sale, se ce l'hai avuto per 10 anni, esatto, sale, infatti sale, questo è il punto, c'è chi conta su una media di 12 anni, si va dal 12-15%, cioè, però le imposte si pagano tutte, eppure le sanzioni amministrative connesse, sì. Cioè alla sanzione amministrativa per l'omesso monitoraggio c'è la riduzione, ma tutte quelle altre per l'evasione sui redditi le paghi con gli abbattimenti dovuti all'adesione. Quando ti trovano col verbale, ti fanno il verbale, tu aderisci al verbale e paghi un sesto del minimo. Qui la differenza è che ti sei autodenunciato tu, sì, e paghi lo stesso un sesto del minimo. Allora dice, io aspetto che mi prendano, perché se mi fanno il verbale giusto io posso sempre aderire. Quindi questo è un motivo che non rende appetibile. Io non so perché Andrea Manzitti diceva non ci conviene. In realtà queste sono delle valutazioni che ognuno, secondo me, neanche si confronta con il consulente. Queste non sono cose da aziende, queste sono cose da persone fisiche, sì, che hanno il loro uomo di fiducia. Secondo me è difficile. A me, francamente, nessuno mi è mai venuto a chiedere delle cose di questo tipo. Cioè, magari senti il discorso, ma se ci fosse un mio amico che... Sì, beh, classico, no? Classico. Poi Manzitti dice, in realtà, con la faccenda che la segnalazione è obbligatoria. Ieri, per esempio, nella presentazione alla comunità svizzera, Martino, siccome si era parlato a lungo del fatto che un professionista potesse contattare l'amministrazione tributaria senza rivelare nella prima fase l'identità del soggetto a nome del quale stava chiedendo informazioni come funzionare, ieri Martino ha detto neanche per idea, noi vogliamo sapere il nome da subito. E diceva Manzitti, però qui il problema è che per l'omessa dichiarazione va bene, pare che ci sia la garanzia penale, però una volta che la cosa arriva in procura, poi sulla fraudolenta dichiarazione e così via, il testo consente alle procure di riaprire tutte le cose penali che in teoria vengono regolate. Sulla fraudolenta io ho qui cioè le fatture, tanto per noi, allora questi sono soldi, questo non è il professionista che si è fatto pagare estero su estero, perché quella teoricamente andrebbe in infedele dichiarazione e quindi sarebbe sanabile. Qui di solito è il capitalista familiare che ha fatto il management overriding, insomma abbiamo avuto un'esperienza clamorosa negli ultimi mesi, vero? E sono soldi che derivano da fraudolente emissioni di fattura che non sono sanate. ti riduce la pena alla metà, se ho letto bene. Sì, non sono sanata, anch'io l'ho letta così. Quindi che mi tante grazie che mi riduci la pena alla metà, però... La pena resta. Mi sono denunciato io. Ecco, forse questo possiamo ammetterlo, che poteva essere un pochino più, visto in presenza di autodenuncia, nel problema di sovra o sottofatturazione, a seconda di dove la si faccia, ovviamente ci si guadagna, si poteva evitare la via penale o no? Ma c'hanno tutti paura, cioè ormai siamo in una situazione di drammatizzazione sociale sulla... C'hanno paura che poi qualcuno diceva, state aiutando i delinquenti! Torna lo scudo! Cioè, il livello di discorso è talmente nervoso, irrazionale, cioè un ragionamento su queste cose non si sente più, si sentono solo strilli. Sì. E allora si sono messi paura. E quindi sono stati troppo timidi, ecco, perché condono... Scusa, io immagino che tu abbia letto la relazione che Francesco Greco, a capo del pool finanziario, qui della Procura di Milano. Ne abbiamo proprio, perché se ne era parlato in un convegno a Pavia, esatto, cui avevo partecipato. Esatto, e lui nella relazione scritta ad aprile, la trovate sul sito dove c'è la relazione che aveva fatto su questo, proprio interrogandosi sulla premialità, a me sembrava più aperto di questo testo. Però evidentemente la politica ha frenato. In sede di immagine, perché la politica pensa all'immagine, si sono spaventati dalla difficoltà di gestire, cioè in un clima in cui tutti cercano un capro espiatorio, qualcuno da maledire, dice qui eccoli gli amici del giocatori, capito? Ecco. Allora, altra questione, il professor Lupi cosa pensa del fatto che poi nell'aprire questa finestra di possibilità, e ieri Martino ha detto guardate che chi non la utilizza entro settembre del 2015 sappia che poi le percentuali salgono, tornano al 50, 70, 90% della piena perseguibilità penale, ma perché nel frattempo l'Italia poi fa la dura nell'accordo con la Svizzera? Non dovrebbe aiutare anche l'accordo diretto di scambio di informazioni per disciplinare il tipo di richieste dall'apparato tributario italiano al sistema bancario svizzero? Cosa hanno paura? Che se lo firmano adesso non spaventano abbastanza che i soldi svizzera e non fanno l'emersione volontaria? Ma allora io non so che... Allora io temo che non si possa andare al di là di una risposta a istanze nominative, cioè Oscar Giannino ti risulta che abbia qualche cosa in Svizzera, caro amministrazione finanziaria svizzera? Ma non è che l'amministrazione finanziaria svizzera farà mai l'anagrafe dei conti svizzeri mettendola a disposizione di Antonio Martino in Italia. Quindi quelle che vengono chiamate spedizioni di pesca, cioè dimmi un po' tutti gli italiani che hanno i conti da te, non mi pare ci siano riusciti neanche gli americani a farle, perché il fisco svizzero dice scusa, io a domanda rispondo, hai dei sospetti su Pinco Pallino? Chiarissimo. Allora, Pinco Pallino, allora noi ci dobbiamo fermare qua. Quello che posso dirvi, cari ascoltatori, è che la stragrande maggioranza degli sms che sono arrivati, e non mi sorprende, ve lo voglio dire, però dicono di questo tema: a noi, gente ordinaria, frega niente, perché il problema è il lavoro che manca e le troppe tasse che paghiamo a cui non ci possiamo sottrarre qua. Sapevo che era così, però bisogna pure approfondire anche per coloro che hanno soldi fuori, non so quanti siano, e che pensino di poter approfittare di una cosa che è molto erta di rischi. Continuo a dire questo, grazie a Raffaello Lupi, continuate con la 24, appuntamento con me a domani.